Carissimi ascoltatori, buonasera. Riprendiamo la nostra spiegazione del credo o simbolo degli apostoli. Lo proclamiamo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ieri sera abbiamo parlato un po' della prima parte, delle prime parole del simbolo «Io credo in Dio». Questa sera cerchiamo di illustrare le parole seguenti. Padre onnipotente. Ecco allora, Dio è Padre onnipotente. Leggendo la Bibbia noi sappiamo che Dio è amore. Dio è un amore infinito, è solo amore, non è nient'altro che amore. Dio ama ogni uomo e non lascia da parte nessuno. Quindi tutti gli uomini del mondo, cristiani o non cristiani, sono amati personalmente da Dio che è loro Padre. Il Figlio di Dio Gesù Cristo è la luce vera, quella che illumina ogni uomo, leggiamo nel Vangelo di Giovanni, e Cristo proietta su ciascuno un inizio di rivelazione, illumina ogni uomo, vuol dire entra in ogni uomo nella mente, nella coscienza e dà ad ogni uomo un principio di salvezza, di luce, di comprensione di Dio, di fede. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Cristo illumina ogni uomo. Ogni uomo vuol dire ogni uomo e donna che esiste sulla faccia della terra. Ecco allora che anche il balbettio dei pagani, dei filosofi, dei sapienti, ecco allora che ogni conquista del pensiero umano sulla conoscenza di Dio è già un approccio con Dio. Anche quello è un dono della luce che Cristo fa risplendere su ogni uomo seriamente alla ricerca della verità e di Dio. Non occorre ovviamente mettere in dubbio queste verità, anzi bisogna ribadirle e ribadirle e ribadirle perché qualcuno non ci crede. Bisogna però nello stesso tempo passare dal Dio ignoto alla conoscenza del vero Dio. È necessario accogliere la rivelazione che questo Dio fa di se stesso attraverso la storia e in Gesù di Nazaret e in questi 2000 anni di Chiesa nella quale è presente Dio Padre, il Cristo e lo Spirito Santo. Io credo in Dio Padre Onnipotente. Notate, noi non crediamo in Dio Onnipotente. Noi crediamo in Dio Padre. Professiamo il Padre Onnipotente. Questo Onnipotente è un aggettivo collegato alla parola Padre. Il termine Padre, voi lo capite subito, cambia tutto. Dio non ha più il significato di prima e nemmeno l'attributo onnipotente. Padre, infatti, è un essere amoroso nei confronti dei suoi figli, e noi siamo i suoi figli, e Dio così è per noi un Dio d'amore, come un padre e una madre sono due persone che amano i loro figli. E se anche a questo mondo ci può essere qualche genitore che non ama i suoi figli, Dio ama sempre tutti in qualunque situazione. Allora, il Dio Padre in cui noi crediamo è un Dio d'amore, nient'altro, un Dio Padre, amore onnipotente, per cui questa onnipotenza è l'onnipotenza dell'amore. E allora io vi dico la mia impressione, e spero che sia condivisa anche da voi: ben venga un Dio che è mio papà e che è onnipotente nel volermi bene. Dio è il tenerissimo padre di tutti e di ciascuno, la fonte di ogni paternità e maternità in cielo e sulla terra. Lo leggiamo dalle lettere di Paolo, lettera agli Efesini. Un solo Dio, padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. E ancora, piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, ossia deriva. Gesù ci ha insegnato a parlare con Dio chiamandolo Papà, Abba, Padre nostro. Prima di morire, Gesù riassume la sua vita e la sua missione con queste parole che troviamo al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Padre, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini, ossia ho fatto conoscere la tua persona, la tua realtà di padre nei miei confronti e nei loro confronti. Il Dio rivelato dalla Bibbia è allo stesso tempo maestoso e familiare. Dio è la maestà. Dicevamo nella prima trasmissione, nella prima conversazione, Dio nessuno l'ha mai visto, abita in una luce inaccessibile. Ecco il Dio, veramente Dio, la maestà di Dio, ma nello stesso tempo questo Dio è anche padre di Gesù Cristo e padre nostro, ed ecco la familiarità, è della nostra famiglia, è il nostro capo famiglia, noi siamo della famiglia di Dio. I vostri nomi sono scritti nei cieli, dice Gesù ai suoi apostoli, che significa i vostri nomi sono scritti in Dio, nel cuore di Dio, tatuati sulle mani di Dio, siete scritti nello stato di famiglia di Dio come figli legittimi. La parola di Dio, quando ci rivela il Padre, non si richiama alla nostra esperienza di figli nei confronti dei nostri genitori, perché alle volte i figli nei confronti dei genitori non sono un granché. Ci rimanda invece alla nostra esperienza adulta di padre e di madre nei confronti dei nostri figli. Allora, i genitori che sono all'ascolto, forse sono facilitati più degli altri a capire che cosa provi tu nei confronti dei tuoi figli. Ecco, purifica questo tuo modo di sentire, moltiplicalo all'infinito e avrai una pallida idea di quello che Dio sente per me, per te, per ciascuno degli uomini e delle donne di questo mondo. Dio, parlando per mezzo del profeta Isaia, aveva detto: si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Dal profeta Osea leggiamo queste parole di Dio: quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più lo chiamavo, più si allontanava da me. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla guancia. Mi chinavo su di loro per dargli da mangiare. E ancora leggiamo dal Vangelo di Luca: quale padre tra voi, se il figlio gli chiede pane, gli darà una pietra? Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ecco allora che evidenziamo il filone sotterraneo di tutta la rivelazione di tutta la Bibbia. Il filone sotterraneo della rivelazione è qui, questa è la chiave che ci apre il mistero di Dio. Dio Padre rimanda all'esperienza dei genitori, all'esperienza dei genitori amorosi di cui la terra è piena, all'esperienza della tenerezza paterna e materna che i figli a loro volta proveranno quando saranno diventati adulti e sentiranno ciò che prima ignoravano quasi completamente, ossia che cosa significa essere padre o madre. Quando noi vediamo la televisione, quando noi seguiamo i telegiornali, quando noi leggiamo la stampa, abbiamo l'impressione che il mondo sia un mondo di farabutti. No, in questo mondo lavora con la sua onnipotenza Dio Padre, Gesù Cristo, suo Figlio, nostro Salvatore e lo Spirito Santo. E sorretti da questa presenza onnipotente di Dio, non abbiamo paura di dichiarare che i genitori amorosi sono la stragrande maggioranza dei genitori di questo mondo. La terra è piena di brava gente, di bravi genitori, di bravi padri e madri. Balzac fa dire al suo papà Goriot, in un suo romanzo, «Io ho veramente compreso ciò che poteva significare essere Dio solo quando sono diventato padre». Se noi riflettiamo, un uomo che ha un figlio, una donna che ha un figlio e dice «Io sono padre, io sono madre», ha in sé non qualche cosa ma molto di Dio, della paternità di Dio. Io sono in sintonia con Dio perché anche Lui è padre e madre, Lui in un modo infinito, io in un modo anche povero, però siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Certo, dobbiamo aggiungere che anche i padri e le madri possono guardare al Padre Celeste in una falsa ottica, ossia dicono il Padre Eterno è come me. No, aspetta un momento. Sarebbe meglio dire tu devi diventare come il Padre Eterno, ossia imitare Dio Padre, perché hai molto da migliorare. Infatti la paternità o maternità umane, per quanto splendide, non possono dare la nota, il tono, il là a Dio. Oddio, guarda noi due genitori e impara da noi come si fa a fare il padre e la madre. No, siamo noi che dobbiamo imparare da Dio. Allora, la cosa si pone nei termini esattamente opposti. La paternità di Dio viene per prima, questa paternità è fonte di ogni paternità in cielo e sulla terra, per cui ogni padre, ogni madre ricevono da Dio il dono di poter essere in qualche modo l'immagine di Dio in terra, la paternità di Dio che si manifesta attraverso un uomo e la maternità di Dio che si manifesta attraverso una donna. Dio Padre non è a immagine dell'uomo padre, ma è l'uomo che è creato a immagine di Dio, quindi mettiamo Dio per primo, al primo posto, è Lui l'esemplare da cui noi dobbiamo dedurre, imparare, copiare il modo di fare il padre e la madre. Dio è infinitamente più padre di quanto lo sia il migliore dei padri di questo mondo. L'esperienza così eloquente della paternità umana ci può aiutare a intravedere ciò che può essere la paternità di Dio, come uno da una statua può capire la bravura dell'autore o da un quadro può capire la bravura del pittore. Quindi un uomo può manifestare questa paternità di Dio e a sua volta si sente tanto inadeguato dicendo: certamente Dio Padre è infinitamente più bravo di me. Tuttavia, lo diciamo senza esitazione, il cuore di un padre e di una madre sono veramente a immagine e a somiglianza del cuore di Dio, anche se sono solamente un pallido raggio dell'amore paterno di Dio Padre onnipotente. In verità solo Dio è padre e merita questa parola definitiva, anche perché alla fine del mondo in paradiso avremo un unico padre, che è il Padre Dio da cui tutti siamo nati. Ce lo insegna anche Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, e con questa frase di Gesù concludiamo questa prima parte. Non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello dei cieli. Dio è padre di tutti e di ciascuno. Questi titoli che noi diamo per scontati li prendiamo dalla parola di Dio, dalla Bibbia, di cui citeremo varie frasi nel seguito. Ecco allora, in ogni pagina della Bibbia cogliamo l'azione paterna di Dio in mezzo agli uomini suoi figli. Dio non fa chiacchiere d'amore, non si perde in vuote dichiarazioni come fanno i paternalisti: figlioli, io vi voglio bene, poi tutto finisce in una frase, in una espressione che non ha un seguito convincente. La Bibbia dell'Antico Testamento ci presenta Dio che ha come nome, si rivela con il nome di Yahweh, seppure si pronuncia così perché era il nome impronunciabile di Dio presso gli ebrei. Questo nome solitamente viene tradotto con Io sono. La traduzione è un po' mancante, monca. Il vero significato della parola Yahweh, nome di Dio, è questo: Io sono qui. Perché un Dio lontano non serve a niente. Dio dice: io sono qui con voi, in mezzo a voi, per voi, a vostro favore. Non sono lontano. Se Dio è un infinito amore per gli uomini, voi sapete che uno che ama infinitamente e ha la possibilità di stare vicino alle persone amate non sta lontano. E Dio è un infinito amore e nulla gli impedisce di essere vicino a noi uomini, buoni o cattivi, che egli ama. Allora Dio si chiama Io sono qui, e la sua grande famiglia ne constata la presenza e l'azione potente negli avvenimenti della propria vita. Solo successivamente Dio parla per far capire chi egli è. Leggiamo per esempio questa parola del Signore dal libro del Deuteronomio capitolo 32. È Mosè che strapazza il popolo ribelle e infedele e dice agli israeliti: non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito come popolo? Israele è sì un figlio degenere, ma un figlio che sa a chi rivolgersi, che sa quale corda toccare. Ed ecco una preghiera nel libro di Isaia al capitolo 63. Dove sono il tuo zelo e la tua potenza? È il popolo di Israele che si rivolge a Dio. Il fremito della tua tenerezza e la tua misericordia. Non forzarti all'insensibilità, perché tu sei nostro Padre. Tu, Signore, tu sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore, ossia il parente più stretto che deve prendersi cura di noi nel momento del bisogno. E la fiducia di questo Israele impenitente avrà sempre l'ultima parola, perché Dio ha un debole per lui. Ecco, sottolineiamo questa espressione: Dio come padre, come madre, ha un debole per i suoi figli. E se già i genitori di questo mondo hanno un debole per i loro figli, immaginatevi Dio, che è un infinito amore per noi, avrà un debolissimo infinito nei nostri confronti. Ed ecco che leggiamo queste parole di Dio dal profeta Geremia al capitolo 31. Non è forse Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto? Infatti, dopo averlo minacciato, me ne ricordo sempre più vivamente. Per questo le mie viscere si commuovono per lui. Provo per lui profonda tenerezza. Oracolo del Signore, ossia è Dio che ha parlato. Dio Padre è anche pedagogo paziente, proprio perché è Padre perfetto. Che significa pedagogo paziente? Non pretende che i figli diventino adulti tutto d'un colpo, che capiscono tutto d'un colpo, che diventano santi tutto d'un colpo. Ci accompagna sull'arco della vita qui in terra, una vita alle volte anche lunga, parecchi decenni. Dio nell'Antico Testamento ha svelato solo una piccola parte del mistero infinito della sua paternità. Quindi vedete che la rivelazione di Dio copre secoli e secoli, e ancora oggi noi dobbiamo sempre penetrarla più profondamente per essere condotti dallo Spirito Santo dentro nella verità tutta intera. Attraverso la storia dell'Antico Testamento Dio si è rivelato padre solo di un gruppo particolare, del popolo di Israele. Ma la rivelazione del Vangelo è di tutto il Nuovo Testamento, la rivelazione fatta a noi da Gesù Figlio di Dio è questa. Dio è padre di tutti i popoli, di tutti gli uomini, è padre di ogni uomo di qualunque razza, di qualunque colore, è padre del buono e del peccatore, è padre dell'ultimo, ossia dell'uomo dimenticato, emarginato, perduto, il più povero, forse anche il più degradato, è padre anche di quello. Il padre che è nei cieli mi conosce personalmente, pensa a me e mi ama. Io, che forse sono senza importanza per tutti, non sono senza importanza per lui. Io conto molto per lui, per Dio che è mio padre. Se voi genitori avete avuto anche più di un figlio, più di due o tre figli, voi sapete che per esperienza ogni figlio è a sé stante, ha una sua storia d'amore, è nato in un momento particolare della vostra vita, lo amate personalmente, lo trattate diversamente dagli altri perché è diverso, ha bisogno di alcune attenzioni perché è diverso dagli altri. Ebbene, Dio, che è un padre di infinito amore, conosce uno per uno dei suoi figlioli, segue uno per uno dei suoi figlioli, vuole salvare ognuno dei suoi figlioli, ama tutti come se fossero uno solo. Il Padre che è nei cieli, Dio, è mio papà, mi ama personalmente, conosce la mia storia, mi segue giorno per giorno, mi vuole bene, mi vuole salvo. Padre celeste o Padre che sei nei cieli non significa affatto Padre che sei su al di là delle nuvole o tra le nuvole, lontano, altrove rispetto a noi. Non esiste un altrove, Dio è qui con noi, qui in terra. Allora che significa Padre nostro che sei nei cieli, per esempio? Questi termini celeste, che sei nei cieli, sono un'espressione che usa l'Evangelista Matteo in sostituzione della parola Dio, che non osava pronunciare in ambienti composti da cristiani che provenivano dal popolo ebraico, proprio perché lui stesso ebraico di rigide tradizioni aveva questa mentalità e voleva rispettare anche la sensibilità dei suoi uditori, dei lettori del suo Vangelo. Quindi, Padre nostro che sei nei cieli, se cieli vuol dire Dio, Padre nostro celeste, se celeste è per indicare il Padre Dio, per distinguerlo dal Padre terrestre che ci ha dato la vita, quello in carne e ossa, allora Padre celeste vuol dire Padre che sei Dio, Padre nostro che sei Dio. E Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresina, traduceva Padre nostro che sei nei cieli così: Papà che sei il buon Dio. Papà il buon Dio si occupa di ciascuno come se fosse il suo unico figlio. Leggiamo dal Vangelo di Matteo al capitolo 10. È Gesù che parla. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque timore, voi valete più di molti passeri. Ecco allora che di conseguenza la preoccupazione per l'alloggio, il cibo, il vestito è superata per un uomo che crede davvero di essere figlio di Dio. Certo, sono necessari il lavoro, la previdenza, ma l'affanno no. È proibito dai comandamenti del Vangelo. Leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 6. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Gesù aveva detto: e perché vi preoccupate per il mangiare, per il bere, per il vestito? Ricordatevi che avete un papà, Dio, che vede e provvede. Il Padre vi ama. Ecco, se potessimo fare una breve sintesi del vero atteggiamento dell'uomo di fede che crede di essere davvero figlio di Dio Padre. Quest'uomo di fede deve occuparsi sempre e tanto. Preoccuparsi mai, perché la preoccupazione è mancanza di fede nella presenza e nella provvidenza di Dio che è nostro Padre. Dio è Padre di tutti. Tutti sono figli del buon Dio, il nero e il bianco, l'arabo e l'israeliano, il bandito e il santo, il credente e il miscredente. Voi dite: ma allora si fa ad ogni erba un fascio. Sì, signori, Dio è Padre di tutti. Alcuni lo sanno, alcuni non lo sanno, ma Dio è Padre di tutti lo stesso. Egli ama tutti con lo stesso cuore paterno e comanda a noi di fare altrettanto. Ecco allora un testo bellissimo e impegnativo per noi cristiani. Lo citiamo dal Vangelo di Matteo al capitolo 5 e con questa citazione concludiamo. Gesù dice: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? non fanno così anche i pubblicani. Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Questa terza parte la dedichiamo a illustrare l'espressione Padre Onnipotente, ovviamente con povere parole e anche poche parole, perché non si finirebbe mai di parlare di Dio Amore Onnipotente. La Bibbia, rivelandoci che Dio è Padre, ha letteralmente capovolto l'idea che gli uomini avevano della maestà di Dio. Poter chiamare papà il buon Dio, non per modo di dire, ma perché è proprio così, apre veramente i nostri cuori a una gioia indicibile. Leggo dalla prima lettera di Giovanni: quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Ossia, questo titolo onorifico che abbiamo di figli di Dio non è una parola vuota, è la nostra realtà, lo siamo realmente. Affermare che Dio Padre è onnipotente non è un modo per negare la sua tenerezza e rimetterci tutti sotto l'incubo della sua maestà, è l'onnipotente. Proviamo ad illustrare la cosa con un ricordo, un'immagine. Quando eravamo bambini pensavamo istintivamente che il nostro papà era onnipotente, o quasi. Ci sollevava in alto come fuscelli, le sue braccia erano così forti da portare il mondo. Questa forza ci incantava, ci dava sicurezza, non ci faceva paura. Era la forza dell'amore del nostro papà. Il nostro Padre Onnipotente è il Signore Dio dell'universo, e tutto questo non solo non ci atterrisce, ma al contrario ci esalta, perché Dio, come ogni padre degno di questo nome, mette tutto se stesso e le sue qualità al servizio dei suoi figlioli e a loro difesa. Voi capite allora che parlare di Dio Onnipotente, di Dio essere perfettissimo, creatore, Signore del cielo e della terra, può essere non solo imbarazzante ma anche terrorizzante. E se per caso questo Dio creatore, essere perfettissimo, non mi volesse bene, più è grande e più mi terrorizza. E notate, se Dio è perfettissimo, se Dio è pulitissimo, e io uomo sono consapevole di non essere perfetto neanche un po' e di essere sporco, più Lui è perfetto e più io scappo lontano, perché la mia situazione contrasta con la sua, mi mette in rotta con la sua. Ma se il perfettissimo e il pulitissimo è mio padre, io gli corro incontro anche se sono poverissimo e lercio, perché so che si prenderà cura di me, mi spoglierà dei vestiti sporchi, mi laverà, mi farà il bagno, mi rivestirà di vestiti nuovi, come fanno tutti i padri e le madri di questo mondo. Se è mio padre, guai quando dall'insegnamento della religione si tira fuori questa familiarità con Dio, che è nostro padre, nostro fratello e nostro amico. È chiaro, se Dio è mio padre e mi dite che è onnipotente, io sono felicissimo, più è forte, più mi ama e più è bravo, e più io mi sento tranquillo, entusiasta e innamorato, tifoso patito di mio padre. Se invece questo essere onnipotente non lo sento come padre, ma come estraneo, più è potente, più mi fa paura, più lui è santo e più io cerco di rannicchiarmi e di nascondermi perché sono peccatore. È una tragedia credere in un Dio che non è mio padre, mio papà, che mi ama infinitamente anche quando io non lo amo e non merito il suo amore. La visione cristiana di Dio salda in lui gli estremi opposti: la potenza assoluta, Dio mio padre è l'onnipotente, il potentissimo, e anche l'amore assoluto, mi vuole un bene assoluto. La distanza assoluta, Dio non abita in una casupola, Dio non può essere contenuto neanche dall'universo intero perché è un infinito d'amore. ma nello stesso tempo mi parla anche della prossimità assoluta. Dio per mezzo di suo figlio è venuto in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi, si è messo all'ultimo posto, quindi è un Dio che è qui come un padre di famiglia o un fratello maggiore che si prende cura di noi poveretti, ma pur sempre figli di Dio. Dio ci viene presentato come l'essere assoluto e liberissimo e nello stesso tempo legato all'uomo con il quale Dio si è mirabilmente compromesso. Da quando il figlio di Dio è diventato uomo 2000 anni fa, Dio non può più separarsi dall'uomo. Dio e uomo sono diventati un tutt'uno, una sola persona in Cristo Gesù. Il nostro Padre Onnipotente, con l'incarnazione del suo Figlio, ha messo sotto i nostri occhi, non con le parole ma con i fatti, la vera immagine della sua onnipotenza. Che razza di onnipotenza è quella di Dio? Ah, è uno che spacca tutto. No, Dio non spacca proprio niente. Se Dio è amore, l'onnipotenza di Dio è l'onnipotenza dell'amore. Quindi Dio è un infinito amore tutto per noi, un amore che può far tutto quello che l'amore può fare e che non può far niente che non sia un amore infinito. Qualcuno dice: Dio può odiare, e io dico: no, non può odiare nessuno. Dio vuole che qualcuno vada perduto all'inferno? No, Dio non lo vuole, perché ama infinitamente tutti. Allora come fanno ad andarci? Ci vanno quelli che liberamente rifiutano di essere amati e salvati da Dio. La piena spiegazione della prima parte del credo, credo in Dio Padre Onnipotente Creatore, l'avremo nella seconda parte del credo, quando parleremo di Gesù Cristo. Il significato dell'onnipotenza del Signore Dio dell'universo diventerà chiaro in modo inatteso e sconvolgente solo presso la mangiatoia di Betlemme, la bottega del carpentiere di Nazareth e la croce del Calvario. È lì che si manifesta l'onnipotenza dell'amore di Dio. Di fronte a fatti simili, i più profondi pensatori sono completamente sconcertati. Non era quello il Dio che avevano pensato loro e del quale avevano parlato e del quale avevano scritto. Ciò che avevano detto di Dio con le loro parolone astratte forse non era falso, forse era anche vero, ma è tanto marginale. Di Dio hanno detto proprio le cose più lontane, quelle meno importanti. Noi conosciamo in che cosa consiste la sovranità di Dio solamente quando Dio, l'Onnipotente, si spinge al limite estremo dell'impotenza e diventa bimbo che vagisce in una stalla, in una mangiatoia, piagato che agonizza sul patibolo infame della croce. Lì possiamo capire Dio, lì si manifesta la gloria di Dio, ossia Dio porta il suo amore per noi alle estreme conseguenze, e le estreme conseguenze dell'amore è diventare come la persona amata e morire d'amore per la persona amata, e Dio ha fatto questo. Leggiamo dalla prima lettera di Giovanni al capitolo 4. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Di fronte a simili spettacoli, di fronte a un Dio servo, vittima, che muore lui per distruggere le nostre colpe, i nostri peccati, siamo costretti a rivedere tutte le nostre nozioni e immaginazioni di potenza, di sovranità, di signoria, perché noi proiettiamo in Dio la potenza di qualche uomo di questo mondo, la sovranità di qualche re, la signoria di qualcuno che ci fa da padrone, ma in Dio è esattamente tutto il contrario. Dio ci rivela che la potenza di Dio è il contrario della potenza dell'uomo. Gesù ci rivela che la potenza suprema è quella che può completamente rinunciare alla potenza. La sua forza non deriva dalla violenza, ma dall'amore. È la potenza dell'amore, non della violenza. Qui, in questo mondo, lo vediamo da parte dei politici, dei ricchi, da parte di tutti, anche dell'ultimo che gira per la strada, uno crede di essere potente se riesce a comandare gli altri, a fare violenza sugli altri, a fare rigare gli altri. È la potenza della prepotenza, dell'egoismo, della costrizione. Dio no, Dio non costringe nessuno, Dio è amore e l'amore non usa mai la prepotenza o la violenza, diversamente non sarebbe più amore. L'amore si propone, non si impone, si offre in attesa di essere accettato, perché se uno cerca di imporre l'amore ottiene esattamente il contrario, fa violenza, non amore. Ora, nella logica dell'amore, voi lo sapete, pensate all'esperienza anche di casa vostra, il più piccolo è sempre il più grande, il più debole il più forte, il servo è il Signore e inversamente, viceversa. Quando si chiede bonariamente a due genitori chi comanda in casa vostra, dicono l'ultimo nato, il bambino più piccolo, appena fa un piccolo pianto tutti corrono, perché è lui il padrone di casa. Ecco, questa è la logica dell'amore. Dio è così. Certo, Dio è nostro padre, il nostro genitore, e si comporta nei confronti di noi, suoi figli, che siamo pur sempre piccoli, piccolissimi, come un genitore che tiene teso l'orecchio per accorrere subito al primo vagito, al primo grido di aiuto. Cari fratelli e sorelle, facciamo questa quarta parte cercando di balbettare qualche cosa su Dio Padre che è amore e sull'onnipotenza di Dio che è l'onnipotenza dell'amore. Dio è amore, l'abbiamo trovato scritto nella prima lettera di Giovanni al capitolo 4, ma tante altre parti della Bibbia e del Vangelo ci presentano Dio che è misericordia, che vuol dire ancora amore tenero verso la miseria degli uomini, Dio che è infinitamente buono e espressioni che dicono sempre fondamentalmente questo. Dio è amore, questa è l'espressione, potremmo dire la definizione, ma è una parola brutta perché definire vuol dire quasi mettere dei limiti, dei termini, una cornice, mentre Dio è un amore infinito, è la natura di Dio. Chi è Dio? Se potessimo dire, banalizzando, ma di che cosa è fatto Dio? Ovviamente Dio non è fatto, esiste dall'eternità, ma toccando Dio, cosa? Solo amore, nient'altro che amore, non ci sono miscugli in Dio, non c'è un po' di amore, un po' di questo, un po' di quello, è solo amore purissimo e nient'altro. Volendolo definire diversamente ci troveremmo di fronte a un Dio falso, un Dio che non esiste. Leggo da un conferenziere gesuita francese morto qualche anno fa, François Varillon: quando usciamo dalla sfera propria dell'amore e lavorando di fantasia introduciamo in Dio elementi estranei all'amore, quando pensiamo che l'amore è qualcosa in Dio o un aspetto di Dio e non Dio stesso, allora ci costruiamo un idolo. Dio è il vero Dio rivelato dalla Bibbia e da Gesù Cristo, se è solo amore e nient'altro che amore. Certo, Dio è potente, sapiente, santo, giusto e tutto quello che si può dire di buono e di bello sul suo conto, ma notate, potente, sapiente, santo e tutto il resto sono aggettivi e non devono diventare sostantivi. Dio è amore. Il nostro Dio amore è potente, ma è un Dio padre amore potente, è sapiente, è un amore sapiente, è un amore santo, è un amore giusto all'infinito. Quando si parla della giustizia, qualche volta si sentono delle persone che lasciano veramente meravigliati. Ecco, la giustizia di Dio, Dio viene e dà a ciascuno quello che merita. Staremmo freschi, andremmo tutti all'inferno. La giustizia di Dio è l'amore giusto di Dio, è un amore che ci libera dal peccato, ci recupera, ci salva, è amore, non è cattiveria, non è condanna, ma salvezza. L'ha detto Gesù nel Vangelo. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna, la vita di Dio. Dio non ha mandato il suo figlio per condannare il mondo ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Quindi Dio non è venuto per condannare ma per salvare tutti. Ecco, allora Dio è puro amore. L'amore non è un attributo di Dio, tra le tante cose Dio è anche amore, no, no. L'amore è Dio stesso, la sua sostanza, e tutti gli attributi di Dio sono gli attributi dell'amore. Ecco, allora diciamo sempre Dio è amore e poi gli aggiungiamo tutti i belli aggettivi che abbiamo citato e anche gli altri. Rifiutiamo coraggiosamente il Dio onnipotente per accogliere il Padre onnipotente, l'amore onnipotente. L'amore del mio Dio è antecedente, gratuito, senza ragione, incondizionato. Dio non mi ama perché io sono bravo, buono e bello. Non c'ero neanche quando mi ha creato. Mi ha amato da prima e da sempre, senza nessun mio merito, né quando mi ha fatto, né adesso che mi mantiene in vita. L'amore di Dio nei miei confronti non ha altro motivo che il desiderio di Dio di amarmi, come è di ogni amore paterno e materno. Scusate, il discorso può essere irrispettoso. Qualche genitore può avere un bambino, una bambina che altri definiscono brutti, magari portatori di handicap, gli altri, guarda com'è brutto quel bambino lì. Per il papà e la mamma il proprio bambino è sempre il più bello di tutti, è un bambino che rapisce gli occhi e il cuore dei suoi genitori. Ebbene, noi fratelli qui in terra forse vediamo uno l'altra e diciamo guarda che lo lì fa schifo, un disgraziato, un peccatore, un lazzarone, e ci giudichiamo con una cattiveria un po' simile a quel proverbio, a quel detto amore di fratello, amore di coltello. Ma quando Dio Padre guarda ognuno di noi che siamo il suo bambino preferito e prediletto, anche se siamo sporchi, anche se siamo un po' malandati e malconci, Dio viene rapito da noi, non perché noi meritiamo, ma perché Lui è Padre e ci ama di un amore infinito, come ogni genitore ama la sua creatura. I genitori degni di questo nome sognano il loro figlio prima ancora di averne visto il volto, lo sognano ancora da fidanzati e prima di concepirlo, e mentre lo aspettano nei 9 mesi di gravidanza dicono sarà bello, sarà biondo, sarà nero, e ci fanno su tanti discorsi belli da innamorati, infarciti d'amore, discorsi che forse non corrisponderanno al figlio che nascerà da loro, ma che li fa sognare tanto, ed è bello sognare per amore. Questi genitori che devono ancora fare il figlio, che aspettano che nasca, non lo conoscono ancora, non sanno nemmeno se sarà maschio o femmina, sanno solo che sarà il loro bambino, il mio bambino. È un amore meraviglioso che non aspetta di conoscere l'altro per amarlo, che si offre all'altro qualunque esso sia, maschio o femmina, sano o malato. Amore che non verrà meno per tutta la vita e per nessuna ragione. Un padre e una madre sono costretti dall'amore, costretti da una legge di natura ad amare i figli, anche quando cercano in tutti i modi quasi di levarseli di dosso e dicono non è più mio figlio, lo odio, non ci penso più, per me non esiste più, per me è come fosse morto. Sono tutte parole più o meno pazzoidi. E per cercare di cavarsi di dosso questo cordone ombelicale che lega il genitore al figlio, ma non è possibile. È di questo tipo, è infinitamente migliore, l'amore del Padre Celeste. Non presuppone nulla da parte mia. Per darsi a me non aspetta che io lo ami, per amarmi non aspetta che io sia amabile. Voi genitori non amate i vostri bambini anche quando tornano con i vestiti rotti o sono sporchi? Perché al di là dello sporco o del vestito sbrindellato, voi riconoscete vostro figlio, lo amate comunque, sporco o pulito che sia, e così anche Dio. L'amore di Dio non è una risposta al mio amore. Allora Dio dice: se tu mi vuoi bene, allora incomincio a volerti bene anch'io. No, Dio ci ama per primo, è sempre Lui che prende l'iniziativa dall'eternità. L'amore di Dio è antecedente, primo, sovranamente indipendente, incondizionato. Dio mi amava dall'eternità quando mi pensava e io dovevo ancora venire al mondo. Anche l'amore dei fidanzati e degli sposi non è gratuito né incondizionato, perché è reciprocità. Ed ecco qui che allora incominciamo a sentire stridere un po' questo paragone tra l'amore di Dio che ama sempre, comunque, tutti gli uomini, quelli che lo amano, quelli che non lo amano, i buoni e i cattivi, mentre noi, fidanzati, sposi, alle volte siamo tanto egoisti. Se smetti di amarmi mezza giornata, smetto anch'io. Ossia, non sappiamo amare gratis. Ecco la grazia di Dio, Dio che ci ama gratis, che si dà a noi gratis, anzi, che si dà a noi soprattutto quando lo meritiamo meno, perché deve riempire la fossa del nostro peccato e deve recuperarci dal profondo delle nostre cadute. La gratuità totale ed eterna dell'amore è solo quella di Dio, è l'onnipotenza del solo amore paterno di Dio, mio papà. Tutte le altre forme di amore, e quelle del prete, quello del genitore, quello dell'amico, sono sempre forme di amore tanto infarcito da tornaconto e da egoismo, purtroppo. Leggo ancora da François Varillon. Dio è povertà assoluta, in Lui non c'è traccia di avere, di possesso. Eternamente il Padre dice al Figlio: tu sei tutto per me. Il Figlio risponde al Padre: tu sei tutto per me. È Dio il più povero di tutti gli esseri. O, se preferite, dite pure che Dio è il più ricco, ma ricco in amore, non in avere. Ora, essere ricco in amore ed essere povero è esattamente la stessa cosa, perché l'amore è dono, non possesso. E se Dio è un amore infinito, Dio è un dono infinito, si spossessa infinitamente, scusate la banalizzazione anche della lingua italiana, si dà via tutto alle persone che egli ama. Colui che ama di più è anche il più povero, perché dà di più e quindi ha di meno. L'infinitamente amante Dio è infinitamente povero. Dio è un infinito di povertà e di umiltà. Questo è il vero Dio. Questo è il Dio rivelato a noi da Cristo, dalla sua vita, dalle sue opere, dalle sue parole. Ed ecco allora, il Figlio di Dio è disceso tra noi come un mendicante assetato. Non è venuto a fare da padrone. Nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, Gesù a mezzogiorno, seduto presso il pozzo di Giacobbe, chiede da bere a una donna samaritana. Chiede un piacere, potremmo dire chiede l'elemosina: donna, dammi da bere. E sulla croce ricordiamo Gesù che dice: ho sete, e gli porsero da bere vino misto ad aceto e ad aromi amari, a fiele. E alla fine dei tempi Cristo ci chiederà se lo avremo riconosciuto e amato povero nei poveri. Notate che il Signore Gesù ci dice di amare non quelli che vengono a portarci qualche cosa, ma quelli che vengono a chiedere. Io avevo fame, non sono venuto a portarti un panino, sono venuto a chiedertelo. Avevo sete, quindi a vedere se mi davi tu da bere. ero senza vestito e tu mi hai dato il vestito, ero senza casa e mi hai ospitato, ero malato e tu sei venuto a trovarmi, ero in carcere e tu mi hai visitato. Ecco, allora dice, l'amore è dare, Dio è un amore infinito e un dono infinito. Se volete essere veramente figli del Padre vostro, dovete diventare il più possibile dono, amore, altruismo. Ecco, allora alla fine dei tempi ci chiederà se lo avremo riconosciuto, amato e servito, povero nei poveri. E da questo dipenderà la nostra salvezza o la nostra esclusione dal paradiso. Venite voi benedetti perché mi avete dato da mangiare, da bere, mi avete vestito. Ma Signore, non ti abbiamo mai visto. Tutte le volte che avete fatto questo a un bisognoso l'avete fatto a me, perché io mi identifico con tutti quelli che hanno bisogno. E ci chiediamo anche, e chi è a questo mondo che non ha bisogno? Anche il miliardario ha bisogno di un sorriso, di un'amicizia, di una buona parola. Alle volte è più solo lui che neanche i poveretti che si fanno compagnia. La povertà materiale di Betlemme, di Nazareth, del Calvario è solo il segno di una povertà molto più profonda, povertà immensa di Dio, infinita, assoluta, senza la quale non possiamo affermare che Dio è amore, perché se Dio tenesse qualcosa per sé o tenesse se stesso per sé, sarebbe un egoista, non un Dio amore. Dio è un amore infinito perché si dà infinitamente, totalmente agli altri. Come siamo lontani da certe immagini di Dio che noi ci siamo fatto per ignoranza e superficialità e che gli atei giustamente rifiutano e dicono se il vostro Dio è quello che mi raccontate voi io ne faccio senza, e hanno ragione, perché spesso abbiamo presentato una contraffazione di Dio, scusate l'espressione, una schifezza di Dio, mentre Dio è infinitamente bello, interessante, è simpatico Dio. Ecco allora, il credente serio è colui che afferma la povertà assoluta di Dio, perché Dio è amore e l'amore è darsi agli altri. Il Padre onnipotente è dunque un mendicante d'amore. La sua onnipotenza di amore, la sua onnipotenza di amare, lo rende completamente mendicante e completamente povero. Egli è la povertà in tutta la sua potenza. Ecco perché Gesù è nato povero, è vissuto ancora più povero ed è morto poverissimo sulla croce, perché doveva rivelare chi è Dio, la povertà assoluta di uno che si dona tutto agli altri. Se Dio fosse un Dio onnipotente, come forse lo pensiamo noi, piegherebbe l'uomo al suo volere usando, se necessario, la forza. Sono discorsi che abbiamo sentito fino alla noia. Ma dov'è Dio? Se io fossi Dio sarei andato in Jugoslavia e non avrei permesso la guerra, gli stermini, le pulizie etniche. Se io fossi Dio non avrei permesso i genocidi dello Zaire, oggi chiamato Congo, e del Burundi e del Ruanda. Non avrei permesso che la mafia facesse, non avrei permesso che quelli rubassero, che quelli violentassero, se io fossi Dio. Per fortuna che tu non sei Dio e che io non sono Dio. Lasciamo fare a Dio il suo mestiere. Dio è un amore infinito e non usa la forza e la violenza verso nessuno, mai. Ci ha fatti liberi, e di questo ne parleremo in seguito, e rispetta la nostra libertà, anche quando la usiamo male. È colpa nostra se ci sono queste cattiverie in giro, non colpa di Dio. Questo Dio onnipotente, questo Dio che usa, se necessario, la forza, che ci fa rigare con le buone e con le cattive, non esiste. L'amore di Dio Padre è abbastanza potente da rispettare la libertà dei suoi figli infinitamente più di quanto potremmo aspettarci dal migliore dei padri di questa terra. Ricordate la parabola del figlio prodigo, che sarebbe meglio intitolare la parabola del padre misericordioso che aveva due figli, uno vagabondo e uno rimasto in casa. nel capitolo 15 di Luca. Un padre aveva due figli, il più giovane disse: padre, dammi la parte di eredità che mi spetta. E Dio gliela dà e lo lascia andare. Quando poi, dopo aver perso tutto ed essersi infognato e dopo essersi perso, finalmente rientra in se stesso, non per bontà di cuore ma per fame, e dice: ritornerò da mio padre. Il padre lo vede da lontano e gli corre incontro e gli fa festa come se tornasse un eroe, non un figlio vagabondo, un figlio sbrindellato. Un vero padre dà fiducia a proprio rischio e pericolo. Gioca tutto sul suo figlio: beni, nome, cognome, se volete, reputazione, lavoro. Che farà il figlio di tutto questo? E qui interpello voi genitori: avete fatto dei figli, avete dato il vostro cognome, li avete riconosciuti come vostri. La vostra reputazione, il vostro onore è legato anche al comportamento dei vostri figli. Sai, il figlio di quello lì è un delinquente in galera. Come esci di casa tu col cappello sugli occhi? Il figlio può sperperare, sciupare, infangare tutto. Gente cara, questo è il prezzo della libertà. Lo so che molti si rifugiano nel cane o nel gatto perché quelli sono più obbedienti, danno meno pensieri e soprattutto non disonorano mai i loro padroni. Ma un figlio è un'altra cosa. Non si può costruire un uomo a minor prezzo di questo, rischiando tutto, perché il figlio può diventare anche uno che demolisce la tua persona e tutte le cose che avevi raccolto in vita tua. Si dice e si ripete: se Dio è buono, perché tutto questo male nel mondo? Perché non ferma la mano del malvagio? La ragione è questa: Dio è un padre onnipotente, per questo può e deve lasciare partire il figlio sciupone, prodigo, vagabondo, per rispettare le sue libere scelte. Può pazientemente aspettare di fronte alla zizzania che ha invaso il suo campo dove ha seminato il buon grano, parabola che troviamo al capitolo 13 di Matteo. Dio, solo per amore, perché Dio è solo amore e agisce solo per amore ha suscitato davanti a sé degli esseri completamente liberi. Sartre fa dire a un suo personaggio: se l'uomo è libero, Dio non esiste. Infatti, il Dio onnipotente che aveva in testa Sartre non esiste, perché l'uomo è libero. Ma l'uomo è libero proprio perché esiste il Padre amore onnipotente, onnipotente nell'amore. Ripetiamo, senza paura di essere noiosi: Dio è mio Padre. È un amore infinito tutto per me e la potenza di Dio nei miei confronti e nei confronti di tutte le sue creature è solo e sempre ed esclusivamente la potenza dell'amore, e l'amore fa sempre bene e non può fare mai nulla di male. Sarà Dio che pagherà i danni dei suoi figlioli che siamo noi, che prenderà su di sé le malefatte dei suoi figli turbolenti e risanerà di tasca sua i loro bilanci fallimentari. È venuto il figlio di Dio sulla terra e ha pagato per tutti. Abbiamo sbagliato noi e ha pagato lui. Come fa un genitore serio, il quale paga i danni prodotti dai figli e si prende addosso le responsabilità dei figli quando combinano delle marachelle? Al figlio vagabondo, quello sempre della parabola del capitolo 15 di Luca, che torna al limite dello sfascio, riserva onori e celebrazioni degne di un eroe ed è fuori di sé dalla gioia quando ritrova l'uomo che si era perduto. Ricordate la parabola dell'umanità perduta paragonata a quella pecora. Un pastore aveva 100 pecore, ne ha perso una. Quando la ritrova, se la porta a casa facendo lui la fatica del ritorno, ponendosela sulle spalle, e poi la mette nell'ovile al sicuro e poi va con gli amici e coi vicini di casa e dice: rallegratevi con me, ho trovato la mia pecora che si era perduta. Il nostro Dio è il più dipendente di tutti gli esseri. Contrariamente a quanto sembra, amore e volontà di indipendenza sono incompatibili. Uno dice: io voglio essere indipendente, voglio amare ma non voglio dipendere da nessuno. Non è possibile. Quindi, chi ama di più è più dipendente. L'infinitamente amante Dio è infinitamente dipendente, non dipendente nell'essere, ma nell'amore. Facciamo un esempio semplicissimo. Un bambino dipende dalla mamma nel suo esistere, è la mamma che ha dato la vita al bambino. Ma sul piano dell'amore è la mamma che dipende dal suo bambino. Quando il suo bambino sta bene, lei è tutta contenta. Quando il suo bambino sta male o muore, lei è la personificazione del dolore. Chi ama è felice di vedere la persona amata contenta, sana e buona, e soffre tremendamente quando vede la persona amata infelice o morta. Ebbene, se è vero come è vero che Dio ci ama, mi ama infinitamente, Dio è infinitamente contento quando io sto bene, come un genitore è contentissimo quando il suo bambino sta bene, Dio è infinitamente addolorato quando io sto male, peggio ancora se vado perso, se vado a finire all'inferno. Parleremo del paradiso e dell'inferno a suo tempo verso la fine del credo, ma anticipo qualche cosa. Se è vero che Dio ama infinitamente ogni uomo e ogni donna, se gliene va perso anche uno solo all'inferno, il dolore di Dio è grande tanto quanto era grande il suo amore per lui. A un amore infinito corrisponde un dolore infinito. Quindi non pensiamo che Dio mandi con disinvoltura la gente all'inferno o lasci andare con disinvoltura la gente all'inferno. Gli è costata la vita di suo figlio morto su un patibolo per salvare tutti. Cristo ce lo ricorda nella messa tutti i giorni. Questo è il mio sangue versato per voi e per tutti, per cancellare i peccati, per salvare tutti. Dio è il più dipendente di tutti gli esseri, ma ripetiamo, e speriamo di essere stati chiari, dipende da noi nell'amore. Se noi siamo contenti, Lui è contento. Se noi soffriamo, se noi moriamo, Lui soffre, come un genitore nei confronti del suo bambino. Non è dipendente dall'essere, nel senso che non siamo stati noi a fare Dio, a inventare Dio o a dare la vita a Dio. C'era dall'eternità, c'era da sempre. Concludo. Il vero Dio è infinitamente ricco, ma ricco di amore e solamente di amore. È infinitamente libero. E voi dite, per far che cosa? È infinitamente libero di amare. Un Dio così noi non saremmo stati capaci di inventarcelo, perché va al di là di ogni fantasia. Dio è così perché ce l'ha detto Lui, perché ci ha rivelato se stesso, perché il Figlio di Dio è venuto a raccontarci queste cose. E il Figlio di Dio merita di essere creduto. Io credo in un solo Dio, Padre, amore onnipotente, creatore del cielo e della terra, quindi mio Padre, mio creatore.